Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire. Lo sai che il DNA è lungo più dell'equatore. Lo sai che c'è uno spirito anche dentro ad un motore. Lo sai che i grandi mistici hanno braccia forti e i grandi calciatori c'hanno i piedi storti. Lo sai che nella pancia può ascoltare i suoni. Lo sai che anche i malvagi fanno gesti buoni. Lo sai che ogni tramonto è l'alba di un vampiro e che le idee future sono già in giro. Lo sai che proprio adesso un uomo sta morendo. Lo sai che proprio adesso un bimbo sta nascendo. Lo sai che proprio adesso lo stiamo vivendo e qualche cosa proprio ora ci stiamo scambiando. Falla girare, falla girare, falla girare così che tutti la possano vedere. Falla girare, falla girare, falla girare così che tutti la possano sentire. Falla girare, falla girare, falla girare così che tutti la possano vedere. Falla girare, falla girare, falla girare. Le zebre sono bianche con le strisce nere. Le zebre sono nere con le strisce bianche. Lo sai che per le mosche noi siamo lentissimi e per una balena siamo piccolissimi. L'Africa è il continente più ricco del pianeta. A volte l'alfabeto inizia dalla Z. Lo sai che il Santo Graal è nel salotto di mia nonna e il centro della terra sta sotto la gonna. Lo sai che un chilo d'oro pesa come un chilo d'aria. Lo sai che Dio esiste fino a prova contraria. Ci sono due maniere per uscire di prigione. Scontare la tua pena pure un'evasione. Lo sai che nello spazio non c'è gravità. Lo sai che certe volte non c'è neanche qua. Lo sai che questa notte esploderà una stella. Lo sai che un'emozione poi non si cancella. Falla girare, falla girare, falla girare così che tutti la possano vedere. Falla girare, falla girare, falla girare così che tutti la possano sentire. Falla girare, falla girare, falla girare così che tutti la possano vedere. Falla girare, falla girare, falla girare. Che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire. Lo sai che il DNA è lungo più dell'equatore. Lo sai che c'è uno spirito anche dentro ad un motore. Lo sai che i grandi mistici hanno braccia forti e i grandi calciatori c'hanno i piedi storti. Lo sai che nella pancia può ascoltare i suoni. Lo sai che anche i malvagi fanno gesti buoni. Lo sai che ogni tramonto è l'alba di un vampiro e che le idee future sono già in giro. Falla girare, falla girare, falla girare così che tutti la possano vedere. Falla girare, falla girare, falla girare così che tutti la possano sentire. Falla girare, falla girare, falla girare così che tutti la possano vedere. Falla girare, falla girare, falla girare. Falla girare, falla girare, falla girare.